scale che esce sul tetto, per cui se metto un tubo troppo lungo mi tocca mettere dei tiranti e non lo posso fare, capito? Col tubo così, con la boomerang, cioè non ho assolutamente nessun problema da nessuna parte. Ho un rumore di alternata ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eia. Cazzo, c'è ancora un rumore di alternata. Io, permetti? Confermo. No, mazza, intende varia. Aspetta un attimo, vediamo, forse c'è questo microfono. Sei sceso anche di segnale? Sono sceso di segnale. Ora. Adesso è 9. Luca. Ehi, sono qua, dimmi tu. No, dico, anche tu magari lo ascolti basso, figurati, tu sei, diciamo, in condizione rispetto a me, dai, ottimale, diciamo. L'antenna è libera, se ce l'hai sul tetto, no? Vabbè, non c'entra niente, ma io non so dove abito. Sei più nato di me, a me io parlo sempre io lo sento proprio, lo sento a livello del QRM, non so capire niente. E tu l'ascolti leggermente, quindi non è che stia andando così male, dai. Ma dico, tu lo sai dove abito però, no? Tu sali vicino a casa, vedi i palazzi, sono coperto da palazzi. Ma anche se sali sul tetto, sono coperto. Però diciamo che riesco a uscire, dai. Anche adesso il rumore di alternata? Confermo, sì. Ma che cazzo li ha preso a questa radio, ma dimmi tu. Ma dico, l'antenna ce l'hai aperta, almeno l'antenna, dai, scusa, se cade a fianco va bene. Ma io proprio la mia non va da nessuna parte, è attaccata al muro. Guarda, Frazio, il rumore di alternata adesso? Sì, uguale, no, purtroppo sì. Aspetta, hai cambio il microfono. Può essere qualche massa del microfono, a volte ti fanno impazzire questi gavetti, questi fili. Andiamo bene, andiamo, che è? L'apparato l'hai mai aperto o no? È originale, Luca? Sì, sorginato. Vabbè, ma no, l'avevo già comprato sorginato. Sono una bomba, Il 3009 spara, mi piace molto la modulazione. Guarda a vedere adesso se c'ho alternata. Negativo. Sto cazzo di microfono di merda, ma cosa li ha preso, cazzo? Segnale 9, tu mi ricordo se prima eri più forte però. Segnale 9 con picchi positivi. No, questo è 294, c'ha 4 watt, va bene così. Però non c'è più rumore di alternata, giusto? Giusto, per me va bene. Ma dimmi tu, cazzo, anisai tu. Vabbè, adesso metto quel microfono, lo metto sull'altra, vediamo se cambia qualcosa, se c'è rumore di alternata di nuovo. Ok, siamo qua. Avanti Gianni. Scusa Gianni, vai, rumore di Benifella. Sono di Medu, cioè 5 MB più 5 ciò. Nessuno difetta, quello difetta, cazzo. Sarà qualche connessione, magari non al massimo. Ed è chi ci ha mandato Gianni? Gianni doppio. Allora, ogni tanto va sto cazzo il rumore. Vediamo se è entrato Antonio. Antonio! Antonio si è perso! E non sa tornare. Franco, ma stai uscendo liscio? Io sì, scappa. Quanti fatti? Non lo so adesso questo sta dando. Questo penso su una ventina, Ma cos'è? Super Galaxy? Sì, questo è il Super Galaxy. Diciamo che sia una ventina di watt. Vabbè, il gemello di quello che c'ho io, però vabbè, di un'altra marca, dai. Con qualche leggera modifica, con qualche leggera differenza, perché la radio è precisa, a parte esteticamente, poi dentro sicuramente cambierà qualcosa. E a te Luca, quanti watt ti sta dando? Questa qua, se non erro, 8 watt. Come la mia, perché ho provato a tirare su quasi a fine corsa il trimmer, però mi va in picchi negativi, quindi praticamente il trimmer è regolato all'80% e lo strumento mi dà 8 watt. Ma c'è il dissipatore dietro anche tu? Sì, c'è il dissipatore, però credo da come mi stava dicendo Marco Condor che praticamente non ha il doppio finale, praticamente ha solo un finalino questo. Ha chiamato qua, questo qua non reagisce. Allora, adesso com'è? C'è alternata? Ridagli il microfono, ridagli. No, negativo, cosa l'hai fatto? L'hai caduto a terra. Ma è teso il zocco, l'hai giocato a terra. Lascialo così, puntellalo. Ah, così è. A colpi devi andare. Niente, è perfetto adesso. Hai visto, vai a tornare un colpo e lo puntelli subito, l'ho puntellato. L'hai giocato a pezzi, ve la giù in mano, un pezzo sì, un pezzo no. Ascolta, guarda il segnale invece, questa è la massima potenza che dà questa radio, 12 watt, 15 modulati, più alto il segnale, fra? Sì, più alto, qui sei quasi 9,20. Ok. Quindi confermi che alternata non ce n'è più? No, no, non ce n'è, è il microfono, c'è qualcosa nel microfono. Vabbè, e qual è più bella, questa o l'altra che stavo modulando poco fa? Mi sta l'altra. Questa sembra che stai parlando un po' da lontano, Ok, aspetta che ricambio. Prova, così ci facciamo più caldo, dai, più formaggio. Fa, stavi dicendo che ti stai mettendo a posto la mantova. Ehi, la stavo riparando. Che c'è tutto grippato, i radiali di sotto, tutto marcio sotto, ci sono i pezzi dentro. E stavo trapanando, ma mi sa che ho esagerato trapanando, ne ho tolto anche le bocco di rotone. Convinto che fosse il pezzo dell'antenna, invece era boccolata. Domanda stupida. Vuoi tirare a buona mantova? Sto però a fare dello stenditoio. Come peso? Non lo so se peserà di più, ma per provarla con tre radiali, perché uno va bene da parte del muro, a meno che non faccio il buco la signora Rosetta e ti metto il radiale da bacio in vento. Perché cazzo, già hai difficoltà con Ghisa, cazzo, quella là con i radiali c'è un sacco di ingombro, quindi non so come la metteresti. Ah, per Claudio era meglio la radio di prima, non so se stavi usando un altro baracchino, comunque preferivo anch'io quella di prima. Preferivi questa per caso? Quella che cioè l'Inter che stavi usando prima, giusto? Perché non pompa, cazzo brutto mette Gianfranco G. No, dico, preferivo questa rispetto all'ultima che hai usato. Allora, questo microfono è quello che stavo usando prima sul 294. Ok, adesso attacco il 294, vediamo se fischia di nuovo, perché ho riassemblato i pezzi. Questa è bella la modulazione, fra. Già. Va bene. Va bene così o va bene per modo di dire? Va bene, fra, ti sto dicendo 10, va bene. Puntella, anche questa, va bene. Franco, per te va bene. Adesso ripasso al microfono che stava fischiando. Col base. Vediamo, cazzo, se fischia di nuovo e con la terra. Anzi, se lo cuda la balcone. Sta piovendo a dirotto, ragazzi. Dici che guardo. Già buio, anche qua piove però. Non a dirotto, ma a dirnove, mi sembra. Dirotto di nuovo. Aggiustato. Dirotto, di nuovo. No, di nove. Non vorrei che ti avessi a dirlo a dirotto, quindi noi non diciamo 8, quindi non piove. Diciamo 9 e così piove. Allora, questo è il microfono che stava fischiando poco fa con la radio che stava praticamente, sentivo il rumore di alternata. Senti qualcosa? No, non si sente. Sembra che stia parlando proprio da lontano. La voce comunque è chiara, il segnale vabbè è sceso, questo è meno vatta, giusto? Sì, questo c'ha 4 watt, per quello che io ho staccato l'amplificatore, no? Perché stavo mettendo i 747, pensavo fosse quello il rumore, capito? E quindi niente, allora, adesso dobbiamo regolare sto cazzo di croce. C'è dei miei picchi positivi? Lo so, dobbiamo regolarlo però. Allora, sono in piedi. Allora, qua ci abbiamo il tono A. Allora, il tono qua va così, secondo me, anche secondo voi. Che distanza c'hai dal microfono? 10 centimetri. Prova avvicinati. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Così è bella potente. Vabbè, ma per farla bella potente basta metterla così, Ora, to, a, a, a, a, ma in culo. No, preferisco. rischiamo più bassa e vicino al mare, avvicinare un po' qualche centimetro il microfono, è meglio, secondo me. Allora guarda, mettiamo, secondo me è meglio così, guarda, neanche a metà e i toni a due. Ah, per me va benissimo. Non è molto, molto spinta, c'è la leggera preamplificazione, dopo fai. Eia, a mio orecchio risulta un po' più mediosa rispetto all'altra prova che stai facendo, risulta un po' più mediosa questo passaggio qua. Se alzi troppo l'analisi si sporca, sembra che vada in distorsione. Il livello è buono, però la sento molto mediosa questa. Ma si è molto già fatto nota, chi mi dice che va giù a radio merdosa? Mediosa, non merdosa, mediosa, mediosa. Contropimidi. Eia. Ci sono le tonalità medio alte e molto, molto esaltate, capito? Siamo qua per questo, tu che hai fatto per 50 anni, anche se ne hai 40, ma ne hai fatto per 50 anni radio. Allora, così a 2, così il tono è a 3, va meglio o va peggio già? Adesso non è, rispetto a prima è meno mediosa, poco fa era anche troppo. Ok, allora dobbiamo togliere questo medioso. Allora, così a 3, così a 4 il tono, dimmi tu, dimmi, canta. Adesso praticamente stanno venendo un po' fuori i bassi, non è mediosa come prima, adesso per me va meglio, poi non so gli altri, comunque riesco a apprezzarla di più. Oh, vedi che togliamo il medioso, allora adesso parlo alla stessa distanza dell'MC60, fra, secondo te è meglio così? Non so, c'è questo effetto camera, come che stai parlando da lontano. Vediamo se lo sente anche Luca. Effetto camera, è tutta viuta, dice la gaggia. Aspetta un attimo che apro la finestra, vedi se c'è qualcosa. Sta piovendo un bel bello. Luca, non c'è più. No, non tocca, allora ho aperto la finestra. Adesso è uscito questo rimbombo. No, ce l'ha perché sicuramente sta amplificando di più. C'è gioco io, questo è... Sempre l'Inuit, sempre l'Inuit 294. Voglio capire, cazzo, vabbè, non mi aggiudetti voi a me. Guido mi ha detto che sono che la faccio a Radio Merdosa, tu mi dici che faccio un rimbombo. Cazzo, non so, né batterista, né merdoso e né mi chiamo Falcone. Io ti dico come ti sento. Se vuoi ti registro e te lo mando. Ah, puoi anche farlo, se io dico che va bene, perché ognuno ha il suo baracchino, le sue cose, come dice Tino Muscolo, ha pienamente ragione. Ogni baracchino ha la sua sensibilità di ricezione. Queste prove vanno fatte con radio un po' più serie, diciamo, dai. Però questo medioso è andato via già. Eia. Comunque confermo quello che diceva Franco, si sente chiaramente il reverbero della stanza, lo sento anch'io, quindi non è una fantasia, dai, quindi confermo che c'è anche un po' di reverbero dovuto alla stanza vuota. Vabbè, mangia noi cosa male, dai, già va bene lo stesso, forse perché grido troppo io. Andavè, Antonio e Luca sono spariti, almeno avevamo altre 4 orecchie in più, vediamo un po' se qualcuno si acciara. Ma il telefono non c'era, anche il programma per registrare, devo scaricarla forse. Vabbè, è importante comunque che vada bene, che non ci sia più rumore di alternata, poi chiaramente già non c'è problema. Le senti le campane? Per quello che ti dico, io avrei abbassato l'amplificazione e parlato più da vicino, così elimini quell'effetto di camera vuota, capito? No, sono qua, scusate, sono qua. Adesso mi pigiamo pure, va. Oh, tu che sei vicino, mi senti tipo barattoloso, camera vuota? No, va bene, dai, già, è fortissima la radio, ma è forte. Diciamo che ha un effetto un po', non so, posso spiegare, cracchi, se vuoi ti registro te la mando. Allora, la posizione che io uso normalmente con questo tipo di radio è questa, ok? Ecco, questa è la posizione che io uso normalmente, va bene? Per me va meglio così. Sì, lasciala così, un attimino che metto il pigiama. Oh, cazzo, abbiamo trovato questo compromesso. Lugofè, va bene così, 5 centimetri, tono a 3 e preamplificazione a 5, va bene? Eh beh, certo, avvicinati al microfono riduci praticamente l'effetto riverbero, visto che hai praticamente la bocca molto più vicina e quindi si attenua il riverbero, così va meglio. No, pensavo mi stavi dicendo una parolaccia, cioè, lo sai che io lavori speciali non le faccio con la bocca, li faccio con i piedi. andava bene, va bene così qua. Dai, allora va bene così, aggiudicato, quindi abbiamo eliminato quel... No, fra, davvero, e quando mi hai detto che c'era... che praticamente c'era rumore alternato, siccome so che la radio non ha rumore alternato, perché l'ho provata in un altro canale col microfono normale, hai visto? In diretta, gli ho dato un colpo al microfono, ne è uscito un piantone, l'ho ripiazzato, adesso non lo fa più. Capo, no, si sentiva l'alternata, non era un rumore di vento, si sente l'alternata onde forte? No, il rumore di alternata era perché mi sono messo le cuffie, ho attaccato le cuffie alla radio, all'altra radio, e praticamente c'era alternata. È così, va bene che va bene. Ok, allora ci siamo, dai, questa va bene e abbiamo regolato il microfono. Adesso mi attacco l'altra, che quello lì era già regolato il microfono. Ecco, poi devi ricordare tutte le regolazioni, poi come fai? Te le segni? Oh, occhio! Cambio perifella! Vabbè Gianni, poi l'hai fatto tagliando la macchina? No, adesso devo accumulare qualche spicciolo, poi la porto. Sei fermo? Oh yeah. Ma aspetta, Roger Bip inserito, cazzo, non me ne ero avvisato. Oh, fra, questa qui invece è l'altra, va bene, l'altro microfono, le regolazioni sono giuste qua, no? Parla sempre alla stessa distanza, quanto c'hai? Sui 5 centimetri? No, ero troppo distante, così, questa distanza qua va bene? Quella è, perché all'inizio c'avevi sempre quell'effetto da lontano. Anche questa è bella potente? Sì, bella, chiara. Bella nera, quindi toni anche questa a 2 e il microfono a 5, va bene che va bene. Ok, puntello, Rublofè. Ok, confermo, puntella. Adesso ti mando un messaggio, Cla. Ti mando un messaggio, aspetta. Va bene, K di Rosmetro. Dai, parliamo, già sono qua io. Stavo solo cercando di capire se tutti i microfoni che ho vanno bene, adesso vanno bene. Perché cazzo che devo regolare, tutti uguali, tanto la voce è uguale. I vintage sono vintage, si abbiglia in culo. Quindi c'è adesso un microfono per ogni apparato vintage? Non hai visto la foto, te la mando. Manda Garce. Io ho cambiato, ho fatto una base grande, quella che ha fatto Giulio, che è la più grande, e ho messo tutti i vintage base, tutti i vintage base con tutti i microfoni, ok? Mentre dall'altra parte c'è tutta la sezione HF, VHF e UHF, separati completamente, ho due sedie completamente diverse, due scrivanie completamente diverse. Cazzo c'è il posto, fra, me la sfrutto questa stanza, scusa. Manda, non l'ho vista ancora. Anche le mie comunque sono tutte imparate nei vasi, anche il mio. Aspetta, prendi un Gianni che metto a posto, che adesso sono lontano, che metto a posto, sennò facendo le foto si vede troppo casino. Dai, prima in ordine, poi vendi la foto. Avanti già. Ehi. Cosa volevo dire? Vabbè, Antonio non sta cerato ancora, volevo chiedergli una cosa. Vabbè, già si farà sentire appena aggancia. Cosa volevo dire? Ma me ne sono dimenticato. Me ne sono dimenticato. Stavo parlando della macchina, pure tagliando da fare. Io ho fatto già il preventivo, insomma, dovrei portarla da Coso, da Sini. Conosco Marco, mi ha fatto il preventivo lui. Niente, adesso è solo una questione di cash. Spero di mollargliela quanto prima, dai, perché ci sono anche gli ammortizzatori dietro da fare, li abbiamo provati su sulla macchina per la revisione e quelli di dietro sono scoppiati, quindi bisogna cambiare. Quelli davanti sono 85%, tutti e due, però quelli di dietro proprio sono proprio a buttare. Che macchina è, già lo puoi dire? Una vecchia appunto 55S, tre porte. Ma dietro come sono? Sono separati dalle molle? Scusami un attimo, mi devo montare un attimino, arrivo. Vedi a capo. Guardate Luca. No, niente, ti volevo dire di andare da quel mio amico, Giuseppe, che gli fa prezzo buono. È in gamba e poi è onesto. È onestissimo. Tu conta che per fare la macchina da 25 mi aveva chiesto la Ford da 1000, 1200, non si sapeva cosa era, quella, vabbè, era la frizione da fare. Poi praticamente saltavano le marce e secondo loro era il cambio, invece non era il cambio. C'era la salda, era un coso sotto, se non mi ricordo cosa era. Comunque, ma la Ford ha speso molto molto meno da questo qua, ma molto molto meno. Poi facevo un rumore, non sapevamo manco loro, cioè della Ford, non sapevamo manco loro, non si sono resi conto che ci mancava l'olio nel cambio. Che cavolo. Non è il primo, gente che ha fatto la macchina a fare il tagliando, hanno svuotato tutto quanto la coppa, lui ha ritirato la macchina e la macchina era senza un goccio d'olio e ha fuso tutto. Sì. Comunque disonesti proprio, disonesti, perché loro sono per aprire il cambio volevano 300 euro. Cioè, ma tenete conto che non veniva oggi nel cambio, non era un problema di cambio. Qua, lasciamo perdere. E questo che dici tu, chi è questo amico tuo? Giuseppe si chiama. Cioè, l'autofficina in via Venezia. No, quello che stai dicendo Gianni dovrebbe essere lì vicino al cimitero, dai. Via Siotto Pintor, dove c'è l'Eurospizza. Sto ascoltando un audio di Claudio e sentivo anche la mia voce, la mia modulazione. Vabbè, comunque, purtroppo la gente onesta è un po' difficilota trovarla. No, questi, quello che stai dicendo Gianni, sono abbastanza tranquilli, abbastanza onesti per adesso, dai. Non mi posso lamentare, io gli faccio la revisione, qualche tagliando della Smart, anche quella di mio figlio, un giorno la sua è di quella, come si chiama, col titolo particolato, siccome lui non fa molta strada, e non gli faceva concludere i cicli di lavaggio del filtro e gli è scoppiato tutto il manicotto. E praticamente invece di cambiarlo, che costa 300 euro il manicotto, hanno utilizzato le flange, quelle in ferro, e hanno ricostruito, diciamo, con un tubo di gomma nuovo la parte che era scoppiata, e mi hanno fatto risparmiare con 20 euro e ce ne siamo usciti. Vabbè, se è così, ok, ma cazzo, da 2000 euro a 650, euro c'è una bella differenza. Con 2 euro riusciamo tra macchina. Ma poi ma non si sa, poi abbiamo provato la macchina con me, no? Cioè, ha fatto un giro grande, applica benzina praticamente, sacca benzina, così, ha fatto un giro. Cioè, ma prima di sparare cazzate, assicurati, no, bisogna accendere il cambio, così. E poi non c'era, che, cioè, il meccanico mi ha detto, non c'era olio nel cambio, ecco perché facevo quel rumore. Quando giravo sulla parte sinistra, cioè la parte destra, facevo tipo così, una cosa fastidiosa, un po' era fastidioso. Adesso non lo fa più da quando l'ha riparata. Guarda che mi hai mandato un paio di foto, Claudio, dato l'esercito di apparati che c'ha. Ti piace? Complimenti, clan. Non ho fatto l'ordine, cioè tu vieni qua, fra, io ti faccio la foto nel pavimento, vedi un cavo in mezzo ai piedi, mi dici, ma dove cacchio gli hai messo i cavi? Sono tutti sotto traccia, tutti, c'è solo i cavi che entrano nella finestra, fascettati, che non danno nessun fastidio, e vanno praticamente dove ci sono gli HF, poi da lì partono tutti gli altri cavi con i commutatori per i vintage, perché sono tutti attivi, hai visto, ognuno c'ha il suo microfono. No, sono schierati, che sembra un esercito davvero, Fine! Avanti. Claudio, fine, hai cazzato, dalla Brescia. È dalla Brescia, non è giù Brescia, io sono fatti, non parole. Fine. Ciao Luca. Ciao a tutti. Non so chi ci sia, ho appena acceso. Ho voluto sfottere a Claudio, ma non ha funzionato. Gamba, e poi adesso è ben scortato, sia a destra che a sinistra, è già un armamento micidiale. Vuoi superare a me, ma non so se ce la fa. Luca, sali e scendi. Sono tutta la roba che ho venduto, guarda, in questo periodo l'avrei superato. Aumenta di che vi manca una intanto mi ancora, quindi se che date una moscia, appena ci vediamo, per darti quel cosio, quella scatola che già mi hai capito, mi porto via quel legno che c'hai lì, intanto l'hai rubato una Batti. Non è legno, è lamiera, sembra legno, sì. Sembra legno in effetti. No, è bello, ecco, è bello veramente. E funziona bene, perlomeno. Poi hai visto, gli ho messo anche il bagaglio nuovo, gli ho messo spinota 4. Già va bene, dai, già va bene. Quando c'è il connettore a 4, così io posso usare tutti i microfoni, tranne quello dell'Inter che li hai messo tu perché è a 5, però gli altri sono tutti a 4. Avanti, Fra, per i saluti a Luca, quindi sono contento che ti è piaciuto, dai. No, molto, molto bello, molto bello. Sono belle le radio, poi ben messe, ben ordinate, ben schierate. Sì, saluta Luca. Che zona sei, Luca? Secondo me c'è un bip di ingresso, così è. No. Bip d'ingresso? Sì, quando schiacci c'è un bip d'ingresso. Questo microfono bip non ne ha, la radio bip non ne ha. Sarà qualche ritorno. No, adesso stai uscendo anche un po' male. Male? Non so. La radio è un po' tremolante, non lo so. Claudio, non lo ascolti tu? Te l'ho già detto, c'è qualcosa che non va lì. Ogni tanto si sente questo tremolio. Si sente questo tremolio. Vedrai che quando c'hai quell'altro connettore non lo senti più lui. Vediamo un po' abbassando il mic. Ma se c'è ancora, No, è un problema di schermatura. Vai tranquillo. A futti dinni. Intanto gli appoggio già sì per il San Radio. Che sta già fa. Aspetta che muovo qua lo spinotto. Non senti quel bip quando entra? È un gracchiare, non è un bip, non fra. C'hai le batterie collegate, quella radio deve andare, quel microfono deve andare con l'alimentazione diretta. Tu vedrai quando avrai l'alimentazione diretta col suo connettore, mi dirai, Cla, avevi ragione, esce una cannonata molto, molto meglio di come stai uscendo adesso. Meglio. D'accordo, riprendete Cla, che mi assento un attimo e poi entro a lavarmi, mi devo ancora lavare, che sono appena rientrato. Ehi. Sei in tutta la di che ti sono così grande a travaglio, ma basta che te ne vai. Adesso sta uscendo meglio, poi c'è sempre quel click d'ingresso. Perché sono la zona, io sono qui a Montebasso. La puoi dire? Lima Delta di fronte al campo sportivo, non c'è nessun segreto. Di Paolo come antenna, niente di che. Non arrivi bene qua, facciamo forse più. Vabbè, lì adesso siamo vicini. Chi è? Ah, chi è? No, tutto occupo. Antonio Volta che entra, Antonio Ceppa, il sindaco di Brumache. Quando l'hanno incontrato, l'ho battato, invece di qui fino a Capoli si è entrato in bocca. A certo punto tu reso, mannaggia, ormai c'è questa Sareso. Non so Gubalzino, c'è questo 5 di coglio, c'è buonato del coglio longo. Ciao a te, già lo sai tu quanto funziona a Porto d'Ora. Chi sei di Santo Marito, sono Benzini. Chi sei di piazza, di vicino a mare, chi sei sotto tutti quanti, c'è 5 di coglio, quanto a me. E me la putta sai, non è vergogna se c'è 5 di coglio. Sono buonato a Porto d'Ora. Tu non sei Tucano. Monello, Antonio Giuseppe, avanti Fra, non so se stiamo durando, non lo senti? La sento a malapena, boh, mi senti Antonio? Dove tu cuno, tu cuno. Ehi, modula poco lui. Lui quando è indaffarato a quest'ora poi deve fare i piatti, capito? Deve mettere a posto la cucina, e allora è impegnato. Va bene che va bene, Allora questa è la posizione per modulare con questo cacchio di microfono. Però sono contento che funzionano tutti e funzionano bene, vai Fra. No, alla grande. Ma una buona, no, funziona bene. Tutte. Allora, tu immagina che c'ho un pony base che non ti ho fatto sentire perché non ci arriva il capo, quindi devo cambiarlo di posizione e lo cambierò appena ritiro l'altro, perché devo ritirare anche un patch base, sempre 23 canali a 220, capito? Quindi faccio patch e pony che sono un po' simili, ma tu devi sentire la ricezione di quel patch, ha due altoparlanti, una a destra e una a sinistra, è una cosa spettacolare, ma veramente molto molto bella, ha un ricevitore pazzesco, veramente. Poi vabbè, c'è il DAC, a proposito adesso ti faccio sentire il DAC, cazzo. A vedere se esce, io so come si tratta in dillo, ma aspetta che è comodo. Aganta, aganta. Lubrofe, rieccomi, rieccomi, sono arrivato di nuovo, dai. Dai, dai, riprenditela, lo vedi. Stavo medicando la caviglia di mia madre che ha... devo passargli la pomata e quindi mi sono dovuto assentare un attimo. Cazzo, prima dov'eri? Grandezza, quanti anni ha? 80, 80 tondi tondi. Hai un rodaggio ancora, rispetto ai miei. Oh yeah, crocro. Vabbè. 80 sono tanti. io ne ho 90, però. Sta iniziando a perdere colpi di memoria, poverino, però fisicamente è un grillo, è la verità. Peccato che la memoria non lo accompagni, davvero, è un peccato vero e proprio. Sì, anche mamma è così, sta iniziando a dimenticarsi spesso le cose, insomma. E che ci vuoi fare? Boh, è così. Lui c'è una 85 e quindi siamo più o meno siamo lì, dai. Mia madre ne ha del 30, del 35, quindi anche tuo padre del 35, giusto? K mia madre del, ma mio padre del, 3, del 31, prossimo anno siamo di cifra tonda 90. Ora, ma mi sentite? Sì, più basso, ma ti sento. Come più basso? Cazzo, mi sta tradendo il DAC. Ora, aspetta. Il segnale più basso, sicuramente c'è meno watt. No, la radio. La radio va... diciamo, va bene, non come le altre erano più belle. Aspetta che regolo il microfono. Questa c'è una modulazione diversa. Com'è? Sei per la transistor o valvole? No, questo è il valvolare, che l'ho appena acceso, aspetta. Ma fallo scaldare un po', là. Ora. Guarda se va bene adesso. Hai aumentato l'amplificazione, qualcosa è cambiato, troppo. Il Michigan non ha tirato su, troppo alto, Metti, permetti, abbassa un po'. Guarda così a metà, va bene? No, va meglio così, dai. Ok, Rubrofè, questo è Rudac, DAC, Mark 10 SSB. Eia, come stava dicendo Franco, forse un po' di amplificazione in più. Prima era veramente troppo, adesso va un po' meglio, dai. Ok, va bene, i toni sono sempre quelli, già va bene, dai. La distanza è sempre quella là, ok? Sì, qua vedo dei picchi negativi quando parli, non so, vediamo un po' l'Ubrofetta, controllalo. Aspetta, controlla l'Ubrofetta. No, non fischiamo, quando fischi rimane fermo, quando parli, i toni bassi lo fanno abbassare, prova a parlare invece. Vabbè, li togliamo allora i toni bassi, guarda, facciamo così, mettiamo tutti gli acuti e non se li va a vedere più, com'è la situazione adesso? Io li sento un po' leggermente negativi, vediamo un po' se il mio smite o se... non è niente di grave, però magari è un po' sottoalimentato, vedete, insomma. Ok, poni i riflettori. No, non ce ne sono, non sono alimentate queste radio, sono tutte a 220, se vuoi chiedere a Giudito, va. 220, anche queste a 220, capito? Vabbè, ma lascia perdere, di radio bene sta andando. Va bene, sì, ma dentro c'è un trasformatore, là. No, 220 è questa, 220, trasformatore a 220, non ce n'è 12 volt nel DAC. Negli altri sì, possono andare anche a 12, ma sono tutte a 220. Questa è 220 e boh, non ce n'è 12 volt. C'è qua, no? Claro, te la compro una radio vintage, un vento. Un invetto? Un vento, non 220. Ah, 221 mi serve, che non ne ho, 220 ne ho tante. No, un vento è chitarra, non 220. Un vento. Vabbè, dammi la bruvincia, andiamo a vedere. Sì, ma fra, cazzo, mi dici da 1 a 10 quanto va bene questa radio o la tengo spenta? Beh, io direi, no, quasi 7, dai. Sono perfetto. Mi piaceva più l'altra. È molto burrottosa a me, cioè non so se è il volume del microfono troppo alto, è molto burrottosa, non è chiara, Cla. Ma Cardino, non me lo dovete dire voi. Adesso l'ho messo a 4, meglio va. Va un po' meglio di prima, comunque a livello di chiarezza era meglio l'altra, dai, proprio sinceramente parlando. Va bene, lo mettiamo a C, guarda così. Microfono a C, meglio va. Negativo, negativo. Cosa vuol dire negativo? Non esce più. No, no, è brutta, sta peggiorando la radio, Cla. Vabbè, Cla, che ho trovato anche qui. Anche questa è fuori di frequenza. Mi metti 7.3 ed è perfetta. 7.3, 7.3 è 21. La frequenza invece che 7.5, 7.3 è sì, una bomba. Ah, ho capito. E allora hanno toccato qualcosa in questa radio. Vabbè, sono radio di 40 anni. Va bene, così va bene, Fra, dai, la lascio stare così. Sì, è solo un problema di frequenza, perché addirittura da 7-8 passi a 9 di segnale, quindi è proprio fuori frequenza leggermente, dai. Aspetta, voglio fare una prova, però, se vi trattenete, perché voglio aprire, voglio vedere come è fatta dentro, se c'è qualcosa da dare una regolata, perché c'è lo schema di questa. Sì, queste cose ci piacciono a noi. Sì, è spostata in frequenza, anche io ho provato a centrarlo e aumenta anche il segnale. Perfetto, voi continuate a rimanere qua, 5 minuti, no, non ve ne andate, parlate tra di voi, che io faccio un'operazione drago. Quindi a volte vedi, Mario ti fa impazzire provando, guarda, fuori Mario non pensi di dire, vedi, basta ascoltare leggermente di frequenza ed è una bomba. Claro che sì. Riuscirai. È come lo stesso discorso di poco fa, lì svariati minuti fa, dai, leggermente spostato di frequenza ed era matessi ragione. A volte tu dai per scontato che sia una questione di radio, così, regolazione, invece non c'è niente la radio, vuole solo centrata e buco. Vabbè, chi ci è rimasto? Luca, ci sei? Sì, io sono qua, sono sempre qua. Ma ti vedo un po' freddini, Sono sulle paia di carte. La memoria di quell'usanza si ritrova. Casino. Poi, l'amico di sorte, come si chiama? Antonio? C'è ancora? Rilasciate da voi che non lo sento, Si chiama Antonio Pedivella. Avanti Antonio Manovella, Pedivella, com'è? Pedivella. Lui, che ti offende? Io un cazzo che prendi la radio, la mazza che te ne va. Stacca la corrente, vedi. Così poi non ti sentiamo più. Cosa fai come ha fatto lui? Attorno la mazza, attorno per il bella, Manovella. Scaracola Manovella, com'è? Lumacchina in Angareggio. Aspetta, togliendo il tappo a questa radio, riprendilo, profè. Eia, no, ma Luca voleva, ma non era Tapparella, boh. No, chi c'è per di bella? Poi Tapparella è un amico di Claudio. Tapparetta. Ma non è la Casarella? Casarella non la fa ancora. No, chi c'è un'altra ancora? Io gioco Claudio per di bella. Tumarella, care. Ma te ne ricordi che Luca mi sta battendo un televisore, mi intendi? Chi è? No, c'è di giù, ragazzi, c'è. Mica c'è una trasmissione di ballo, magari mi interessa a me al cane. Cosa c'è? Una trasmissione di ballo, stanno, come si chiama, il cancan stanno ballando. E dopo è? Dai, sto scherzando. Sto guardando qua, Gheo. Arriviamo adesso che dobbiamo arrivare. Sono cose belle. Beh, Gheo è un'ottima trasmissione. Fra, con queste freddure mi stanno venendo i geloni, cazzo. Di belli agnoni. Cazzo! E' Cla. Radio Piazza di Coscia. Occhio. Mandaci la foto dei capelli. Allora, voi parlate, che io controllo i trim, qua, i trim. Controllo i trim. Invece, ma ne avrà due, una in trasmissione e una in ricezione, spero. È un gioco. Allora, vedremo se cambia qualcosa. Lo schema non te lo dice? No, non me lo dice. Lo fa vita, boh. Parlate però. Come diciamo, boh. 1, 2, 3 stella. Luca Caldarella, avanti. Vediamo un po'. Antonio Giuseppe, sei? Niente. avere bisogno. I coinquilini e gli abitanti dell'isola attivano anche gli altri. Chi è te? E chi è papà? Dov'è il gatto, Fuffi? Prendilo, su. Qua va gente, sopravvatti, ma quello sopravvatti. Chi è te? Seconda delle... Chi è piccoli? È piccolo, prendilo. E prendilo. Chi è? Sento quasi, stai sempre... Ma questa è una... un nuovo arrivo, eh. Una new entry, questo cane. Sì, è da agosto, ce l'ho. Sì, ma rompi in balle. Rompi in balle. E quella che era malata, ce l'hai ancora? No, quella è morta, fatta sopprimere. Mi ricordo che stava male, poverina. Molto male, molto, no. Vedela così, poverina, poi... C'è una settimana che non mangiava, non beveva niente, nulla, zero. Come hai fatto poi per smaltirla? Campagna di suocero. Ma si può fare o devi... No, mi ricordo un collega ha dovuto fare un sacco di casini per... Non so se l'ha dovuta incenerire addirittura. Assolutamente sì. Basta che c'è un terreno di proprietà. Quindi si può fare, dai. Meno male. Sotto altre spese pure. Io sono andata di tutti. Anzi, già mi è andata bene, dai. Mi hanno voluto bene, se no... Io volevo fare poco di visite, contro visite, ma comunque il cane se l'avrebbe preso in tempo sarebbe ancora viva. Purtroppo ho aspettato troppo e la piometra si è esplosa dentro, per questo cane, e poi mi vomitava sangue. Mia cugina si è presa un cucciolo di il pastore, come si chiama, pastore abruzzese. Border Collie, che sono bellissimi quei cani. Purtroppo moriamo noi, muoiono anche loro. So che loro campano di meno, molto meno. Cioè loro 10 anni, massimo 12 anni, a seconda del cane anche 13. 13 anni normali e poi ciao. Quindi anche qualcosina in più, qualcuno già... Ma, ripeto, sono casi eccezionali. Anche il gatto, noi abbiamo un gatto adesso. Al massimo 15-20 anni, ma sono già casi record. Vabbè. Troppo dovevo aspettare, no? Comunque vabbè, ormai è qua, è vaccinata, è microchippata, è tutto a posto. L'unica cosa che devo comprare le pastigliette, quelle per le pulci e per le zecche. Invece di mettergli la pipetta, gli metto quella, io questa pastiglietta che dura un mese, mi costano 35 euro, tre pastigliette. Sì. Quanto tempo adesso le puoi già prendere, sì? Sì. Dai 2 kg e mezzo ai 5 kg e mezzo di salissima. Che razza è? E loro dicono, vabbè, un metticcio, comunque un incrocio con un Yorkshire, ma... Un piccolo metticcio. Sì, sono più carini. Ho degli amici di Alghero che mi hanno un paio, una è vecchietta, poverina, non vede più. Cammina solo, usa l'olfatto. Sente un po' le orecchie e basta. Adesso non vede più niente, ha molto gli occhi bianchi, cristallino, è proprio opaco. E quindi da un po' anche questo se ne andrà, fino a fuori. Lì, un po' per rosette. Come sta andando adesso? Ecco, BBBB avanti. Cos'è BBBB? Tu Erika. Ah? Tu eri fatto BBBB. Come sto uscendo adesso? Centrato o sono peggiorato? No, non sei centrato, sei sempre basso di frequenza, 773, 073. 073, 07 per 3, 21, per 4, 28. Ascolta, e vatte, guarda Fratte, si muove lo smitter, da questo passaggio... A questo passaggio si muove qualcosa? Si è mosso così, destra e sinistra, però niente di che. Poi ti dico una cosa, se ti porto alla frequenza quella che c'hai tu, la radio a parte che migliora, e in più c'hai picchi positivi. Sì, ma guarda lo smitter, che sto guardando se la potenza questa. Da questo passaggio, guarda lo smitter, da questo passaggio, a questo passaggio cambia, aumenta il segnale? No, negativo. Ok, negativo. Vabbè, allora rimettiamo così. Eccolo qua. Anzi, vediamo qua cosa è successo. provare un altro. Dobbiamo vedere qual è però la frequenza. La frequenza sarà una bobina o un trimmer? Non lo so, sto guardando lo schema. Forse sarà più una bobina, credo, non lo so, bisogna sentire qualche esperto. Ecco già metti ricca, non lo so. Per la bobina poi ci vogliono i cacciaviti quelli anti-induttivi. Anti-induttivi? Quelli che non sono in metallo, dai. Sono rischi di fare danno durante la regolazione. Non trasmettono, come si dice? Non altro, la regolazione, quelle in metallo, invece quelle in metallo danno fastidio. Ah, così è. Non ce l'hai un cacciaviti di quelli che non conducono? Sì, c'ho i cacciaviti induttivi. Non c'è il capace, quelli proprio che non conducono. Questo c'è il capace, anche io sono abbigliato, faccio caiolo. Avanti, lo profe. Ehi, sì, si è ancora leggermente spostato qua. Spostato ciò. Ci vediamo bello. È poco qui. Io più fino che è diventato 140. Quel valvolare che c'ho io, lo Gemitronic che ho preso, lo sai, c'è un casino di fili dentro, io ci sono veramente dentro, mamma mia, e ce n'ho quarti. Lo c'ho, qua c'è un filo attaccato, chi c'è lo per cazzo, allucinante. Parlate tra di voi, non problema. Forse ci vorrà un consiglio di qualche esperto, di come si chiama, non mi vengono i nomi, dai. Ancora Pomponio? O Fabrizio magari. No, vabbè, sono baracchini, non ce l'ho niente, non mi interessa più di tanto, stavo controllando se trovavo qualche altra cosa, ma no, non c'è niente da regolare qua. Mimì, cos'hai toccato adesso? Cosa ho toccato? Nulla. Sicuro sì, qualcosa, perché sembra che stiamo aumentando il segnale. Aumentando il segnale, cazzo la prima di fuoco? Qualcosa, avevi qualcosa in mano? Il cacciavite c'ho in mano. Ma hai toccato qualche cosa, tu. Sembrava che stessi aumentando il segnale, sei passato quasi a 9 e poi sei di nuovo stabilizzato. Dice che c'è qualche trim qua. No, adesso sei come prima. Ora. E così è cambiato qualcosa? No, è uguale. È uguale? Sì, sei sempre spostato di 3, di 2 3 km. Sì, vabbè. Ora. Vabbè, ma già va bene, là c'è Abidellucci. Sì, invece tu in ascolto ti cambia qualcosa da così sono 7-3. 1-2-3 prova. Così sono 7-5. Per te non cambia niente, anche di segnale. No, va bene. Prova tu lui a vedere come ti ascolto. Luca. Tobi. Prova a vedere. Che devo provare? No, vedi come ti ascoltavo. 1-2-3, cado per i 3. 1-2-3, cado per i 3. 1-2-3, Luca Gazzare. Va bene. Quindi segna che anche questo è da centrare. Incentrato, me lo vuoi che è una capita via? Incentrato? Cazzo, ma incentrato, bro. Che ciuga. Roba da matti. La metto qui qua. Le volte iscritti, vacca. Ma incentrato, bro. Mi sa che quel valore che c'ho io, per ascoltare bene, devo spostare tutto a un lato, tutto a destra, mi pare. Quindi sono tutti così, perché anche quello è anni 60, roba vecchia. Tutti comunisti sono. Vabbè, ma che cosa vuoi fare, fra? L'importante è che ci senta, vai. Aspetta che provo anche il mio a volare, provo a attaccarlo. Prova, già va bene. Dai, riprendete che lo tolgo, perché ce l'ho sotto nel cassetto di sotto. Lo faccio scaldare un po' e poi gli collego l'antenna, vai. Ehi, aggrappa di Rogero, che c'è lì? Tu mi dia un trimmer in chitarra radio, tutto condensatori, umari, pesci umari, agari. Breccere. Avanti. Ciao Fra, ho sentito Franco di Sugita, c'è qualche altro? C'è Gianni lo profetta, poi c'è Luca e Franco. Avanti il profetta. Ciao Roberto, ben ascoltato, buonasera. No, mi è venuta in mente una cosa. Ieri stavo guardando un film di qualche anno fa di Spike Lee sulla rapina di una banca, e mentre c'era la stazione mobile della polizia, praticamente mentre i poliziotti che parlano, a un certo punto c'è un'inquadratura del Denzel Washington e alle spalle c'è un 3009 acceso. No, non ho visto. Devo parlare, sei più basso del solito tu Gianni, come va? Ehi, no, ho montato la veicolare perché mi sta mettendo a posto la boomerang. Ah, ok, infatti è 109 più 20, adesso sei 9,15. Bene, bene, sì, io l'ho riparata, però devo aspettare che smetta di piovere, così la rimonto su, dai. E tu Clay invece con cosa sei? No, io sto provando questo Intercat, a vedere se trovavo qualcosa a far andare meglio, ma non ho trovato niente. Ma quello nero stai dicendo? Ehi, com'è la radio lì da te? Ma la radio è buona, però sento sotto un leggerissimo ronzio, già è sopportabile, però qualcosa si sente. Non so. Vabbè, è aperta la radio, cioè ci sono gli alimentatori della KF accesi, dai, c'è un po' di casino. Sì, ok, poi chi c'è, la doppio rum? No, Gianni lo profetta, è buono. Ah, ok. Avanti, allora, c'era Franco, lo volevo salutare, ci sei Franco? Ascolta, oh Robert, tu che c'hai? Ma mi ha detto Franco che sono che è spostata questa radio, ma se è quartata come fai se è spostata? È spostata dove? Ha detto che è spostata di frequenza. Se è quartata, adesso pensandoci bene, ecco che tutto viene resistente. No, a parte mia è tutto a posto. Posso provare spostandomi a te, passo col wifi. Metti la prova a parlare e vedo se sei centrato bene. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'è la radio a posto. No, sei centrato. Ho provato a spostarmi a 0,73 e a salire a 0,76 e a 75, sì. Come mai io? Ciao Roberto, io invece se lo porto a 7,4, 7,3 aumenta il segnale e migliora la radio nettamente, i picchi diventano positivi. Non lo so, con cosa lo stai ascoltando? Con un baracchino, con un Super Galaxy. Mario, non so se c'hai problemi tu, io non lo so, qua è perfetto. Posso togliermi il dubbio con il CR7000 e quello c'ha la centratura. Aspetta un attimino, accendo anche quello. Perché lo sentono anche gli altri? Oh, probabile che sia ripetuto anche il mio, ma non lo so. Gli altri io provo a spostare e, no, e sono tutti centrati, è solo lui. No, quando io vi dico che ci vuole apparecchiatura seria, allora... Adesso vediamo Roberto, se Roberto mi sente, ecco, ma poi io non posso essere spostato, sono quartate queste radio, fra, mi stai rincoglionendo, come faccio? Per quello sto pieno di resistenze e condensatore, non va nulla dentro, c'ha la barra dei quarti, come fai a essere spostato? Ma c'ha sempre una regolazione, cioè, tu ci avrai quel fine, quello che tu regoli, quello un po' gli dà, un po' di tolleranza gliela dà, credo. Adesso vediamo Roberto, cosa dice? Se mi sente meglio. Anche io ti ascolto meglio spostandolo sui 730-740, la radio migliora di brutto. Ma quello è una cosa diversa. Quella è una cosa diversa, magari cambia la tonalità di quei baracchini, non lo so, spostato qui, non lo so. Adesso vediamo Roberto cosa dice, che c'ha apparecchiatura seria, vediamo un po'. Vabbè, attenzione da Roma a pigliare il TC7000. No, allora, se vogliamo essere proprio pignoli, c'è un leggerissimo spostamento in basso. Sì, a 27,074 e 300, ma stiamo parlando di 700 kHz, cioè stiamo parlando di una cosa infinitesima. Non so come siano regolati loro. Anche Coso, anche tu, come si chiama? Franco, anche tu sei leggermente spostato, mentre Coso, come si chiama? Gianni è perfetto, 75.00, sì. Claudio, ma stiamo parlando, Claudio, di cose che nessun baracchino riesce a individuare, secondo me. Io ti ascolto perfettamente qua, con l'ICR7000, uguale, sono andato a toccare i Coso, i kHz di 0,1, sei spostato di 500, di cosa parliamo? Neanche 500, di 50 kHz si è spostato, ma una cosa infinitissima. Ehi, diciamo che ero a mega, se ci siamo a kHz va bene, dai, è un baracchino di 30 anni, già va bene. Allora lo richiudo, dai, non tocco niente, intanto non c'è niente a toccare perché non si vede niente, non c'è nessun trim di regolazione, tutto resistenze, condensatori, venne a milli. Dai, lo richiudo, riprendi fra. Magari mezzo io, mezzo tu e diventa un kHz, capito? Sarà così, Roberto? Sì, infatti è quello, dai, non c'è problema. Tu magari, anche a me mi capita, molte volte mi è capitato qualcuno con l'altro baracchino, lo sentivo leggermente spostato, invece eravamo tutti e due un po' spostati, sommate le due cose, alla fine sembrava tanto, dovevi centrarti, ma io ripeto, qua col 7000 che c'è il centratore, appena, ma è abbastanza larga la modulazione per cui lo riesco a prendere bene. Ma se fosse stato con un apparecchio di altissima qualità, che quelli sono molto stretti come emissioni, di lì distorce, perché è capitato qualche volta con apparati HF che magari era talmente stretto, l'errore è non riuscivi a farlo sentire bene, la voce sembrava satura. Sì, no, invece tu sei, a te ti vedi stato centrato, cioè se sposto destra e sinistra no, ti vede subito il cambiamento in negativo, sia a destra che a sinistra. Invece lui come lo porto ai verso i 7.4? Sale il segnale e la radio migliora nettamente, quindi sicuramente io sono più positivo oltre il 7.5 e lui invece è un po' negativo. Sì, è possibile, ma stiamo parlando di limiti di coso, di la larghezza di banda, basta che si è appena toccato il baracchino, hanno fatto qualche piccola modifica, qualche cosa, però da parte mia, ripeto, io riesco a ascoltarlo, a tirarlo fuori tranquillamente. È capitato su apparati HF che sono molto stretti, che magari sia 27.074.50 e lì magari se non ti centri bene, se c'hai fitti troppo stretti, non lo senti male, se non sei centrato. Sì, infatti, per fare una relazione giusta della radio, se non è centrato non glielo faccio dare perché gli do una cattiva radio che invece in realtà non lo è, perché spostando leggermente lo sento benissimo e la radio non ha niente da dirgli, è una radio 5 perfetta. E poi ho detto kilohertz, ho detto fesserie, invece stiamo parlando di hertz, era spostato di, stiamo parlando di intorno ai 300-400 hertz di spostamento, ma non so niente. Breccate. Avanti il breccate. Buonasera a tutti, già vedo più room, come sta va? Eia, benissimo da parte mia, diciamo sempre bene, mi hanno insegnato una signora, tu devi dire che stai sempre bene, se ti dicono benissimo, mai dire così, devi dire sto benissimo. Sì, perché poi devi spiegargli il perché, per come, invece dici benissimo e non devi spiegare nulla. È giusto, dice devi essere sempre positivo, allegro, come stai, benissimo, guarda, meglio di così non posso stare. Ma così essere falsi, non sta dicendo la verità, se stai male non puoi essere bene. Certo, se sei con una cadroncada è tutto bobo, un altro disco, no, sto parlando in generale, no, dice, come stai? No, bene, sto bene, non è dire che stai male. Io invece do questa risposta, per andare peggio è meglio così. No, io invece molte volte dico, c'è gente che sta meglio di me, c'è gente che sta molto peggio, mediamente è bene. Ok, facciamo riprendere a Gianni Rubrofetta, avanti al signore. Ciao doppio, buonasera, ben entrato. Cosa volevo dire? Sì, vabbè, riguardo lo spostamento. Sì, anche io provando con girabracchino ho visto che praticamente spostandolo verso sinistra la radio migliorava e aumentava anche leggermente il segnale, quindi io e Franco avevamo un po' di ragione, dai, magari non erano tutti quei kilohertz, comunque avevamo un buon indizio, dai, tutto qua. No, ma non c'è problema, dai, ci mancherebbe. Poi tenete presente il baracchino è abbastanza largo come ricezione, per cui anche se un segnale leggermente spostato lo ricevi. Con una HF magari è più stretto, più selettivo, per cui magari crea un po' più problemi su una HF che su un baracchino. Ok, l'importante è poi riuscire a tirarlo fuori, poi ci sono gli accorgimenti per cercare di migliorarlo, se riuscite magari a regolarlo un po' meglio, va tutto ok. Ok, Franco, a te il mic e poi farà girare per Claudio. Aspetta che passa, sto usando adesso il valvolare, come sto uscendo Roberto? 9.10 il segnale, prova a parlare. Il mic, sto usando un mic normale, dai, non è amplificato. Mic da palmo classico. No, la radio è chiara, buona, non è eccellente, magari un po' più ricca di tonalità acuta, però ti ascolto bene, radio 5, se no 9.10, ti ho ascoltato meglio naturalmente in altre occasioni, però va più che bene, ma se ci metti un bel microfono sono sicuro che c'è alla grande quella radio. Ok, Claudio Sparvero, a lei il mic. Adesso ho messo il microfono da tavola e questo baracchino. E ha il suo microfono da tavola. Basta, mi sono andato a fare i giocatori con il vinto, cioè. Ciao Gianni Oturume, buonasera, ben ascoltato. Davanti lo profeta. Ehi, sei ritornato col bombardone, dai. Si è parlato con la radio, questo si chiama radio, loro ci chiamano baracchini. Baracchini Mombetta, baracchini vintage, quindi questa è una radio, questa è una macchina. Va bene, questo è il 430. Avanti, Bopero. Ah, mi ripeto il posto qua. Vabbè, avanti, posso vedere la giù che notte, mi sembra più dobba, sai quello che chi. Sì, al frangente, perché io l'ho fatto ascolto, chiedo venia, ma ho acceso e subito sono entrato, va. E vabbè, Claudio, escono bene anche i baracchini, non c'è problema, escono bene lo stesso, solo che tu sei gira, ma io ti conosco, chi su tratti e basta. No, sono un palazzo, faccio proprio con i baracchini, già.